farci l'elenco dei guai, perché noi ci siamo divisi nel corso di questi mesi, nel corso degli ultimi anni, magari litighiamo spesso anche dalle pagine dei giornali, poi ci troviamo lo stesso quando le notti o il mattino quando ci sono gli sgomberi delle case, ci troviamo nei commissariati purtroppo molto spesso, oltre che nelle manifestazioni, ci troviamo davanti ai CPT, quindi non credo che qui dobbiamo darci voti rispetto a chi è più attento a questo, a quello, a parole, ci sono i fatti che contano e per quanto ci riguarda ci sono anche i fatti concreti del Parlamento, dove spesso diciamo siamo proprio in pochi, a volte unici, quando si affrontano determinate questioni come quelle per esempio del 41 bis, che è un tema particolarmente delicato, come sanno i compagni del Mezzogiorno, particolarmente delicato, seppure riguarda diritti che appunto dovrebbero essere uguali per tutti anche dentro le carceri, e invece moltissimi, il 90% quantomeno del Parlamento ha deciso di sposare questa tesi dei doppi binari anche per quanto riguarda le condizioni concrete. Ci siamo trovati spesso soli, per esempio sulla legge antiterrorismo, ci siamo trovati soli sul mandato d'arresto europeo, potrei fare un lungo elenco per quanto riguarda i temi che noi consideriamo emergenziali. Recentemente abbiamo approvato alla Camera e ora andrà al Senato, non so se ci saranno i tempi e le condizioni politiche soprattutto per approvare quelle piccole modifiche alle questioni che hanno a che fare con i reati d'opinione. Sono piccole modifiche che possono incidere anche sui processi, un processo come quello di Cosenza, ma appunto bisogna che la legge arrivi a termine. L'introduzione del carattere di idoneità per poter sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali previsti dal 270 alle associazioni sovversive è un punto che fa la differenza. L'abrogazione del 272 che riguarda la propaganda e l'apologia sovversiva è un punto che riguarda i processi in corso. Dunque non è che tra di noi dobbiamo farci la propaganda, ci sono i fatti concreti che parlano, e io penso con altrettanta rigore dobbiamo dirci rispetto a questo tema dell'amnistia. Bertinotti lo scrive oggi, ieri l'ha scritto anche in risposta alla lettera che i compagni di Cosenza gli hanno inviato, come nelle diverse modalità devono essere affrontate, per esempio soltanto i casi che stanno dentro gli 8.000 per cui si chiede l'amnistia dei reati sociali. Allora, se c'è il problema della lotta alla casa, le conseguenze non possono riguardare solo gli aspetti del codice penale, devono riguardare gli aspetti appunto dei provvedimenti concreti rispetto a questo tema. Se riguardano i compagni che hanno fatto degli scioperi come i tranvieri. Allora, abbiamo ascoltato degli stralci dell'intervento di Graziella Mascia, si stava soffermando soprattutto sulla battaglia contro i reati d'opinione, non solo, sulla repressione, sulla 270, amnistia e quant'altro, ricordava anche più o meno quella la risposta di Fausto Bertinotti, che non è potuto essere presente qui oggi, ma che ha mandato una lettera al Movimento spiegando le ragioni della sua assenza, ma comunque molto presente nella giornata di oggi. Ne approfitto per ricordare che più avanti terremo gli approfondimenti tematici su quelle che sono le questioni fondanti di questa iniziativa. CPT, migranti, lotta, repressione, carceri, 270, antiproibizionismo, la legge Fini e quant'altro.